giornata al mare, solo e con mille lire sono venuto a vedere questa qua e la gente che c'è. Il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà, bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ti splende negli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare, e l'epoca mia è la tua, e quella dei nonni, vissuta negli anni a pensare. Una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse in una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone.